ninja che se botti mazzo a me. Aspetta un minuto che mi faccio la doccia, Giulia pensavi a qualcosa di bene. Sto le ciama con le tasse camaletti, cazzo, ma c'è come chili come ti manco le fai tu l'accisti. Yaka, yaka, yaka di Amastar limoccali. Me chiamo coletti che se frega alle pepe ma come t'chiamo ste rotta. Can I think what you think of, because it's too late for me. I can buy so far a shot and I know I fucking time. Ma te la ragosta e mette la cosina molto buona, che mi melda il colestamento che ame la lostina. Cazzo me la mi veste da ritresti di yaka, yaka, yaka di Amastar limoccali. Me chiamo coletti che se frega alle fette, ma come t'chiamo ste rotta. Yaka, yaka, yaka di Amastar limoccali. Me chiamo coletti che se frega alle fette, ma come t'chiamo ste rotta. Yaka, yaka, yaka di Amastar limoccali. Me chiamo coletti che se frega alle pette, ma come chiama sta rotta. Yaka, yaka, yaka di Amastar limoccali. Me chiamo coletti che se frega